Deus mamò al leite do seu peito, non è maraviglia de sanar con treino. Questo pezzo Santa Maria, mira che fremoso, e nassai greje logo grande viadoso. Ora una moglie che ha viato leido, ma de seu corpo e de malencon leido. Da che Deus mamò al leite do seu peito, non è maraviglia de sanar con treino. Che ambras la sua smai non assi se incollera, che ben per cavo dos ombros toda se smetera. E os calcanaires venen seus de reito, se meteron todos no corpo maltreito. Che non prestava nuia mesigna, torno sa Santa Maria a nobre reina, rogando ie che non cata se despeito, se ie peserà mai sassa seu provedo. Da che Deus mamò al leite do seu peito, non è maraviglia de sanar con treito. Ara se mentes in chiesa che agarezzesse, se non che fesese assì perché se lo morresse. E logo se feso levare un leito, ante sa igreja e che ne estreno. Da che non smamuo, leite do se credo, non è maraviglia ne sanar con credo. Se ira agora per mi cane a che le dia, se per smetter na igreja de Santa Maria. Mas a Santa Virgen non a longo credo, mas torno o corpo todo se scorreio. Da che Deus mamouo, leite do seu peito, non è maraviglia de sanar con credo. Da che Deus mamouo, leite do seu peito, non è maraviglia de sanar con credo.